America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, insomma, era un po' che non vi facevo sentire in apertura la campanella di chiusura di Wall Street. Beh, visto quello che è successo ieri, il superamento di quota 23.000 punti, con un nuovo record naturalmente, il 66esimo record da quando Trump è diventato presidente, il livello di chiusura è stato di 23.157 punti, con un aumento dello 0,70%. Ecco, la giornata è importante, ci impone, credo, alcune riflessioni, ma prima di passare a un approfondimento della borsa vorrei partire con una notizia di ieri che ha creato un po' di turbolenza a Washington. Sentiamo. This man is a sick man. He's cold-hearted and he feels no pity or sympathy for anyone. This is a grieving widow who is 6 months pregnant. This is a young woman. Ecco, avete sentito da questo atto d'accusa il presidente Donald Trump, un atto d'accusa che arriva dalla deputata Frederica Wilson della Florida, il presidente Trump ha, mancato di rispetto, questo direi è il termine più usato dai media americani, nei confronti di Masha Johnson, che è la vedova di uno dei soldati, uno dei berretti verdi, dei Green Beret, uccisi in Niger la settimana scorsa. Il marito si chiamava David Johnson, tra l'altro una coppia molto giovane, perché David Johnson aveva appena 25 anni e pensate, avevano già due figli e Maisha era incinta del terzo figlio. Ebbene, che è successo? Che c'è un pregresso, per questo ve ne parlo, perché Donald Trump aveva accusato qualche giorno fa Barack Obama di non essersi comportato bene con i familiari dei soldati caduti in guerra. Cosa non vera, perché invece Barack Obama aveva un rapporto molto forte con queste famiglie, sia lui che Michelle si recavano a visitarli, scrivevano le lettere ed era uno dei momenti più privati e più difficili per questo presidente e per altri presidenti. Lo stesso faceva Bush Junior, Bill Clinton ovviamente e tutti, ed è sempre un momento molto difficile perché il presidente degli Stati Uniti è il capo delle forze armate. Ebbene, Trump, vi ricordo, aveva accusato Obama. Ci furono delle proteste da parte degli uomini Obama, poi venne fuori la notizia che Obama non aveva chiamato il generale Kelly, l'attuale capo di gabinetto di Donald Trump, che, pensate, poveretto anche lui, ha perso un figlio in guerra in Afghanistan qualche anno fa. E Barack Obama chiamò i genitori di altre vittime, ma non chiamò il generale Kelly. E questa mattina qual è il titolo che domina? È il fatto che, parlando con la vedova, che era in lacrime, Donald Trump dice: ma insomma, guardi che suo marito sapeva che cosa andava incontro, sapeva, insomma, poteva aspettarselo, era una cosa per la quale aveva dato la sua firma e dunque, insomma, ne ha fatta una cosa burocratica invece di farne una cosa emotiva. Ecco, la vedova è scoppiata in lacrime, si è sentita insultata dal presidente, il deputato democratico, naturalmente, della Florida ha protestato e dunque ecco che esplode un'ennesima polemica, e devo dire sono polemiche a non finire, nel contesto della Casa Bianca di questa presidenza Trump. Bene, torniamo alla borsa e a quello che è successo ieri. Vi ho raccontato già che sono stati 66 record addirittura da quando Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, infatti questo è chiamato il Trump Rally, il rally di Trump. E quando a novembre del 2016 il presidente Trump fu eletto, il Dow Jones viaggiava attorno ai 18.000 punti, quindi stiamo parlando di meno di un anno fa. Ha fatto 5.000 punti in 9 mesi, stiamo parlando di un aumento percentuale poco al di sotto del 30%, stiamo parlando di 5.000 punti in 9 mesi ed è un record, però, che ci porta a quello che è successo esattamente 30 anni fa nella giornata di oggi, il 19 ottobre del 1987. Sentiamo. Well, the law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter, as stock prices plunged even more than they did on Black Tuesday of 1929. Ecco, avete sentito la dinamica, queste sono le voci di allora, sono i reportage di 30 anni fa, di questo Black Monday, me lo ricordo come se fosse oggi, perché si arrivò a questo lunedì nero in uscita da una settimana che era già stata turbolenta. Il 19 ottobre dell'87 è stato soltanto il culmine di un momento in cui l'indice Dow Jones aveva cominciato a crumbling. Tra l'altro, c'era una dinamica non molto diversa da quella che stiamo vivendo oggi, perché il Dow Jones aveva fatto un aumento da l'agosto dell'86, l'agosto dell'87, di una percentuale stratosferica del 44%. Era passato da 1895 punti a 2722 punti. Ma che è successo? Che una serie di fattori hanno inciso. Intanto la ripresa che era esplosa nella seconda metà degli anni 80, nell'84, 85, 86, la cosiddetta ripresa di Ronald Reagan doveva produrre un atterraggio morbido. Ecco, questo era il termine che si usava allora. Non voglio fare naturalmente dei paralleli perché la situazione economica è completamente diversa, però c'è stata un'esplosione da un massimo altissimo in cui ci si trovò nell'estate del 1987 al crollo di pochi mesi dopo. Alan Greenspan intervenne in modo magistrale, fece subito iniezione di liquidità, ci fu un vertice dei ministri delle economie perché la crisi fu mondiale e il crollo partì da Hong Kong, poi arrivò in Europa e poi rimbalzò in America. Fu una delle prime grandi crisi globali del dopoguerra. Ecco, la situazione poi si ristabilì però in modo molto rapido, non si ebbe la crisi economica che derivò dalla crisi finanziaria del 2007-2009. Ecco, quel lunedì nero fu recuperato in tempi molto rapidi. Vi dicevo, un ruolo chiave fu giocato da Alan Greenspan e ci ritroviamo in una situazione simile perché c'è un momento di transizione. Proprio oggi Donald Trump avrà un incontro con Janet Yellen per capire quali possono essere le sue attù per essere confermata la guida della Federal Reserve, anche se in realtà sappiamo che ci sono altri candidati che forse il presidente può preferire, una scelta chiaramente determinante, e beh, in un momento in cui l'economia non sta correndo enormemente, ma la borsa sta procedendo ancora a un tasso rapidissimo. E dunque la palla a questo punto è in campo di Donald Trump, un presidente che dovrà scegliere per i destini dell'economia americana, perché qualcuno dice dopo queste corse rapide, inevitabilmente a un certo punto, presto o tardi, una pausa ci deve essere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti idee da questa costa atlantica che nei momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su americaradio4.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dedichiamola a Wall Street, dedichiamola a questo nuovo record e al fatto che una gran quantità di persone hanno fatto una gran quantità di denaro in quest'ultimo anno e soprattutto rispetto a quelli che furono i minimi del 2009 quando l'indice Dow Jones viaggiava attorno agli 8-9 mila punti. Dei Pink Floyd, Money. Money. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!